A Parigi, come in ogni altra città, non ci sono solo i vivi. Anche se abitano al piano di sotto, ci sono pure loro, i morti. Pertanto, sindaco e portavoce si sono sentiti in dovere di fare visita al cimitero di Père Lachaise. Una città di morti nella città di vivi, dove le tombe sono case che alle finestre al posto dei gerani hanno i crisantemi. Lì ci abitano Oscar Wilde, Jim Morrison, Frédéric Chopin, Michel Petrucciani. È un posto tranquillo, vivibile. In un delirio di onnipotenza, i due diplomatici hanno anche pensato di prenotare un loculo per edificare un mausoleo per tutti i membri del municipio. Si tratta di una tomba a forma di cappello di paglia. Il progetto è al vaglio delle autorità francesi. Thank you. Thank you.